Radio 24 Reportage. Cibo a perdere, la ricetta dell'Europa, di Laura Bettini. Maccheroe, mi hai provocato e io ti distruggo adesso, Maccheroe. Io me ne magno. Questo lo chiamo il gatto. Questo è il sorcio. Il latte al gatto, lo yogurt ai sorci e il maccarone intrepido distrutto, e cioè divorato. Ecco, almeno Alberto Sordi in Un americano a Roma non buttava nulla nella spazzatura. Noi invece non facciamo così. Secondo uno studio commissionato dalla FAO e presentato all'inizio di maggio, circa un terzo del cibo prodotto ogni anno per il consumo umano, grosso modo 1,3 miliardi di tonnellate, va perduto o sprecato. Perdite e sprechi, sia chiaro, che significano anche sperpero di risorse come acqua, terra, energia, manodopera, capitale, che producono un'inutile emissione di gas serra, contribuiscono al riscaldamento globale e cambiamento climatico. Ci conferma la gravità della situazione Paola Testori Coggi, che dirige la Direzione Generale Salute e Consumatori dell'Unione Europea. Gli scarti alimentari a livello europeo erano 89 milioni di tonnellate nel 2006 e tra 10 anni arriveremo a 126 milioni di tonnellate, quindi un aumento di più del 30% in poco più di 10 anni. Questo vuol dire che l'attitudine e i modi di produzione che conducono a una grande parte del cibo che viene scartato inutilmente, qui si parla di cibo che non viene utilizzato. Tra il 30 e il 40% dello scarto alimentare origine nelle famiglie, l'altra parte ha origine nella distribuzione, è molto importante lo scarto alimentare nella distribuzione e nella produzione. Precisa la FAO che i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo dissipano all'incirca la stessa quantità di cibo, rispettivamente 670 e 630 milioni di tonnellate. Attenzione però, abbiamo detto che il mondo dissipa cibo perché la FAO, nel suo rapporto, introduce un'importante distinzione tra perdite alimentari e spreco di cibo. Le perdite alimentari, che avvengono in fase di produzione, raccolto, dopo raccolto e lavorazione, sono più rilevanti nei paesi in via di sviluppo, a causa delle carenze infrastrutturali, tecnologiche e di investimento. Lo spreco di cibo, invece, è più un problema dei paesi industrializzati, che avviene per lo più a livello di venditori e consumatori, che gettano nella spazzatura cibo in buone condizioni. Perché accade? Le ragioni sono molte e stanno a tutti i livelli della catena, ma ce ne sono alcune principali. La perdita di contatto con i luoghi di produzione, le campagne, la maggiore importanza che attribuiamo all'aspetto del cibo rispetto alla sua qualità, l'incoraggiamento che subiamo a comprare, che ci fa perdere di vista le nostre reali necessità. Paola Testori Coggi. Non è più accettabile a livello ambientale, perché quando noi scartiamo del cibo creiamo un rifiuto che deve essere smaltito e in più abbiamo buttato via una risorsa alimentare che era costata in termini ambientali a livello della produzione. Non è più accettabile a livello economico, di nuovo un dato importante. A livello europeo, in media, una famiglia butta via ogni anno 565 euro in cibo non mangiato. A livello etico, poi, non è accettabile, perché noi sappiamo che oggi 1 miliardo di gente al mondo non riceve abbastanza da mangiare, quindi nelle società sviluppate dobbiamo renderci conto che è anche un problema etico. Il problema è, dice Elisabeth Opinar della Bruxelles Environment, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti nella capitale belga, il problema è che la gente non si rende ancora conto di quanto spreca. Il progetto Cucina Verde è nato per rafforzare le iniziative contro lo spreco di cibo. È portato avanti da 12 partner, ciascuno con obiettivi specifici. A Bruxelles lavoriamo sulle mense e sulle famiglie. Cerchiamo di capire come intervenire per ridurre gli sprechi. Poi, periodicamente, incontriamo gli altri partner e ci scambiamo le esperienze fatte nelle diverse regioni del paese. Il progetto è nato un anno fa e andrà avanti fino al 2013. È un tema difficilissimo. La gente, mi ci metto anch'io, non pensa affatto di sprecare cibo. Ma quando si contano gli scarti che arrivano dalle mense aziendali, dalle case, dalle scuole, allora si vede che il problema c'è. Questo quindi è il nostro obiettivo, costringere le persone a vedere il problema. Però non abbiamo ancora trovato le parole giuste, il messaggio giusto che riesca a raggiungere la gente e convincerla definitivamente. behavior change, and we haven't found the brilliant solution yet. Per riprendere contatto con la realtà, la FAO esorta a tornare a frequentare le campagne e concorda Slow Food, associazione nata in un angolino del Piemonte ma ormai nota in mezzo mondo per la sua difesa delle produzioni tipiche, dell'alimentazione di qualità e della biodiversità in generale. Ci vogliono più campagna, ma anche più cucina per tutti, dice Paolo Di Croce, segretario Slow Food Internazionale. Noi lo diciamo da sempre, ricominciare a cucinare a casa, molto semplicemente, è un qualcosa che possiamo fare tutti quanti noi. Magari accontentarci un po' meno dei cibi di quarta gamma, delle preparazioni industriali, del tutto pre-lavato, pre-affettato e pre-preparato, che poi se ne butta via la metà quando va bene. Proviamo a cominciare ancora, a ricominciare a cucinare, perché sicuramente in questo modo si sprecherebbe tanto, tanto meno. Posto però che nessuno può essere obbligato a non sprecare, chiediamo a Paola Testori Coggi come può l'Europa intervenire. Noi crediamo che bisogna intervenire a due livelli. Primo, bisogna creare delle campagne di informazione e far comprendere al consumatore che organizzando meglio i propri acquisti e la gestione delle proprie diciamo, risorse alimentari può evitare questo rifiuto. Ma è importante anche che l'industria alimentare e l'industria della distribuzione si rendano conto che bisogna fare delle pratiche di distribuzione e di produzione migliori. Lavorare sulle porzioni. L'importante qui è, quando si cambiano le porzioni, non aumentare i prezzi, perché quello che spesso succede è che cambiando le produzioni alla fine il costo finale per il consumatore aumenta. Secondo, è importante anche l'organizzazione, la distribuzione, come la catena di distribuzione opera, il tipo di offerte, il tipo di presentazione. La Testori Coggi ha introdotto il capitolo più complesso, ovvero quello dell'industria alimentare e della distribuzione. Sprechi, come abbiamo detto, ce ne sono lungo tutta la catena, non solo nelle case o nelle mense. Quelli interni all'industria possono essere, se non risolti, migliorati con interventi sull'efficienza e il recupero. Ma per aiutare i consumatori, quelli coscienziosi ma anche quelli no, a ridurre gli sprechi, sono altri gli interventi da fare. Ci sono quelli culturali, di cui parlava la Testori Coggi, e quelli pratici, di cui ha parlato alla Green Week, la settimana verde dell'Unione Europea, David Bellamy, rappresentante della Confederazione Europea delle Industrie Alimentari e delle Bevande. Cosa può fare l'imballaggio per ridurre lo spreco? Può aiutare i consumatori a comprare la giusta quantità di cibo, può servire a conservarlo al meglio, può perfino servire a consumarlo. Partiamo dall'acquisto delle quantità giuste. È opportuno che ci siano confezioni di tutte le dimensioni in ogni linea alimentare ormai. Dobbiamo tenere conto, infatti, che oggigiorno il 40% dei pasti consumati a casa sono di persone che vivono da sole. Molto utili risultano quindi le confezioni che si possono suddividere. Comprando un pacco grosso si risparmia e si ha il vantaggio di poter conservare o surgelare quello che non si consuma subito. Per quanto riguarda le promozioni, un'idea può essere quella di farne di trasversali, con marchi che lavorino insieme. Per esempio, un produttore di pane che, coinvolgendo altre aziende alimentari, spinga il consumatore a comprare il suo pane, ma anche a pensare a come utilizzarlo in unione con altri prodotti in promozione. Su formazione culturale, ma anche produzione e distribuzione del cibo, vuol dire la sua Slow Food, che sta infatti mettendo in contatto tutti gli attori europei del sistema alimentare per battere un colpo all'Unione Europea in questi mesi in cui si sta ridiscutendo la PAC, la politica agricola comunitaria. Obiettivo finale: portare una sorta di terra madre a Bruxelles, la grande manifestazione torinese della sostenibilità e biodiversità del cibo, per far capire a tutti, dai politici ai consumatori, quanto sia importante questo tema. Di nuovo Paolo Di Croce, segretario Slow Food Internazionale. Arrivare nel cuore dell'Europa con rappresentanti da tutti i 27 paesi, sia di chi produce e sia di chi consuma, per far vedere che l'agricoltura e il cibo è un problema di tutti ed è un interesse primario di tutti. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.